Trattare il tema del bacio per qualcuno può essere imbarazzante e forse non del tutto spirituale, ma un argomento del genere non lo si può ignorare per almeno quattro motivi. Uno, perché tutti baciamo e siamo baciati. Due, perché è un ordine divino. Tre, perché per un bacio fu tradito il figlio di Dio. Quattro, perché anche se piccolo, un trattato sul bacio è più raro dell'oro. Proprio per questo ultimo punto, credo che sia più che opportuno esprimere alcune opinioni in merito. Prima di considerare ciò che afferma la parola di Dio sul bacio, desidero riportare quanto troviamo scritto nell'Enciclopedia Italiana Treccani alla voce bacio. Il bacio, che è uno dei segni più notevoli con cui si manifestano l'amore, l'affetto e la devozione, prende differenti forme tra i popoli della terra, a seconda del sentimento che vuol significare e dell'impulso che lo determina. Fino a poco tempo fa era comune opinione che buona parte dell'umanità, specialmente quella tra cui è in uso la mutilazione delle labbra, non conoscesse il bacio, ma le recenti indagini etnografiche hanno dimostrato che questo esiste anche se in forme del tutto diverse. Infatti, popoli dell'Asia Sud, orientale, della Malesia, buona parte degli australiani e dei papuani, alcuni gruppi americani, il bacio fra persone care consiste nello strofinare il proprio naso contro quello della persona alla quale si vuol fare accoglienza. Cinesi, Yakuti, Lapponi strofinano, insieme con il naso, anche le labbra sulla faccia delle persone amica, quasi aspirandone l'odore. Pare che, proprio nell'istante di appressare le labbra alla faccia dell'amico, colui che bacia dica: "Io odoro", per contrapposto al bacio nasale o olfattivo, diciamo labiale, quello rappresentato dall'avvicinarsi e schiudere le labbra sulla bocca dell'amico. Questa forma predomina i popoli semiti e indoeuropei. I romani chiamavano osculum il bacio impresso sulla faccia, e questo aveva luogo tra fratelli, basium, quello dato sulla bocca in segno di affetto, e savium, l'altro accoccato fra le labbra con carattere erotico. Quando il bacio, naturale espressione di affetto, si generalizza, diventa un simbolo che è caratterizzato dal sentimento che l'ispira o dal rito in cui interviene, cioè simbolo di rispetto, di fedeltà, d'amicizia, di protezione, d'omaggio, d'adorazione. Questa valutazione sul bacio rispecchia esattamente ciò che troviamo nella cultura del popolo ebraico. Isacco baciò suo figlio Giacobbe come segno di affetto. Genesi 27:27. Anche Labano, udite le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. Genesi 29:13. Troviamo il bacio di rispetto in Giuseppe alla morte di Giacobbe, quando si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su di lui e lo baciò. Genesi 51. Quando Giacobbe fuggì da suo fratello e trovò per caso Rachele, leggiamo che Giacobbe baciò Rachele, alzò la sua voce e pianse. Genesi 29:11. Il bacio di Giacobbe non era certamente erotico, ma un segno di affetto, di rispetto e anche di protezione. Dal bacio, dato diversamente, in segno di venerazione, di rispetto, di adorazione, nacque, molto probabilmente, il bacio cristiano, espressione del sentimento reciproco di fratellanza nella comune dipendenza a Gesù Cristo. La formula "salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio" ricorre quattro volte nelle lettere di Paolo: 2 Corinzi 13 e 12, Romani 16 e 16, 1 Corinzi 16 e 20, 1 Timoteo 5 e 26, e una volta "salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore" in Pietro, 1 Pietro 5 e 14. L'ordine è preciso, ma esso viene interpretato in vari modi secondo la cultura. Alcuni pensano che tale bacio d'amore sia solo tra lo stesso sesso, altri, proprio perché santo, sia anche possibile tra persone di sesso opposto. E poiché non è specificato il modo di baciarsi, è evidente che esso è soggetto alla cultura. Chi si strofina il naso continuerà a strofinarsi il naso, chi usa la guancia per esprimere il proprio affetto userà la guancia, chi è abituato a baciare sulla bocca darà il santo bacio sulla bocca. Non è molto auspicabile condannare una cultura, e lo si capisce quando qualcuno condanna la nostra cultura. Perciò dobbiamo interpretare l'ordine di Paolo alla luce della cultura nella quale lui viveva. Una cosa è certa, l'Apostolo non intendeva certamente riferirsi al bacio sulla bocca, perché esso non faceva parte dei suoi costumi. Se il bacio doveva essere santo, significa che vi era anche quello non santo. Va da sé che baciare indiscriminatamente sulla bocca le persone dell'altro sesso non aiuta a rimanere casti o a suscitare pensieri puri. Non è certamente necessario considerare le usanze di millenni di anni fa per dimostrare che il bacio è la forma più comune con la quale si esprimono i vari sentimenti. Vi è il baciamano, una forma convenzionale che si usa in certe circostanze e cerimonie. Vi è il bacio di affetto dei genitori ai figli, che prende varie forme. Vedo spesso mamme che baciano i loro piccoli sulla bocca, mentre viene dato sulla guancia quando questi raggiungono una certa età. Vi sono i baci tra parenti, dove si porge una guancia vicino all'altra. Vi è ovviamente anche il bacio erotico, che si danno gli innamorati e gli sposi. Vi sono anche i baci che le persone danno agli animali come espressione di benevolenza. Vi sono pure i baci, come gesto di reverenza, come fece la peccatrice con Gesù, la quale, stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. Luca 7,38. Vi sono anche i baci con un significato religioso che si danno alle autorità religiose, alle reliquie, o alle sacre scritture, come fanno gli ebrei, in qualità di espressione di omaggio. E infine ricordiamo il bacio dei baci, il bacio di tradimento di Giuda dato a Gesù nel Getsemani. Leggiamo nelle scritture che Giuda diede a Gesù un lungo bacio, o, secondo altre versioni, lo baciò caldamente. Quel bacio, benché ignobile, è stato rivelatore, dimostrando che Gesù era talmente un uomo comune che Giuda ha dovuto identificarlo con un bacio saluto. Come sempre, ogni aspetto ha il suo rovescio. Molto probabilmente il bacio è il gesto più consueto ed espressivo esistente tra la razza umana. Tutti baciamo e siamo baciati. Come abbiamo considerato, il bacio assume diverse sfumature, secondo le culture e i tempi. Basti ricordare che il baciamano, in uso fin dall'antichità, ha sostituito il bacio sulla bocca nella consuetudine feudale. Il signore baciava il vassallo che veniva a rendergli omaggio e a giurargli fedeltà, sulla bocca se questo era di sangue nobile, a suggello dell'impegno reciproco. Questi costumi mi portano ad una conclusione che potrebbe essere ritenuta opinabile, ma comprendo chi la pensa diversamente. Più che guardare la forma del bacio, l'importante è la motivazione che ci spinge ad un simile gesto. Detto questo, non significa che uno possa baciare come vuole, quando vuole, con chi vuole, perché tutti dobbiamo stare soggetti alla nostra cultura. Nessuno deve dare scandalo. Così, se in una cultura la forma di affetto consiste nello strofinarsi il naso, chi desidera non scandalizzare il prossimo non bacerà il prossimo sulla bocca, ugualmente. Chi si trova in una cultura dove l'espressione di affetto è il bacio sulla bocca non dovrà strofinare il naso. È evidente che in ogni espressione di bacio vi è la possibilità di cadere in cose illecite. Chi si bacia sulla bocca come saluto può cadere in una irregolare attrazione sessuale e è d'obbligo puntualizzarlo, non solo fra sesso opposto, ma anche dello stesso sesso. Come del resto anche la forma del bacio più santo, come quello di Giuda, può contenere elementi diabolici, come il tradimento, l'odio, l'amarezza. Questo ultimo aspetto porta ad una riflessione molto seria. Il santo bacio che devono darsi i figli di Dio non deve essere santo solo nella forma, ma soprattutto nel contenuto. Se per santo esse intende che esso deve essere motivato anche da un cuore puro, dove non alberga nessuna radice velenosa, nessun rancore, nessun desiderio di rivalsa o di ripicca, allora, Considerando la comunione fraterna dove inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni sono all'ordine del giorno, l'apostolo Giuda, con il suo bacio di tradimento, raffigura gran parte di figli di Dio. Poiché baciarsi è un ordine, poiché non bisogna apparire ingiusti sottraendosi a questo gesto d'amore, nella Chiesa si continua a scambiarsi il bacio d'amore, quando l'amore è ormai diventato solo una parola senza senso. Ecco perché è auspicabile che ogni manifestazione di bacio non debba dare occasione ad elementi illeciti. E, per questo, nel periodo feudale la donna vassalla fu sottratta all'obbligo del bacio. Ma più che il gesto in sé, anche se ha il suo valore, dovremmo essere in grado di andare oltre la cultura, la morale locale e considerare il movente di ogni nostra azione. Come si può dare un bacio illecito secondo la cultura rimanendo nel lecito, così si può dare un bacio lecito secondo la cultura ed essere nell'illecito. Non tutti hanno compreso che il bacio non è un accessorio in più nel banchetto della vita, ma spesso determina anche carattere, oltre il comportamento di ognuno di noi. E non solo. Un bacio può trasformare una vita. Si racconta che un giovane giornalista, mentre faceva un reportage in una prigione, diede un bacio affettuoso ad un giovane carcerato. Quel semplice bacio ebbe la virtù di trasformare il delinquente in un uomo onesto e retto. Così pure per quella madre gravemente malata, che venne visitata da suo figlio disubbidiente e ingrato. Una volta vicino al suo capezzale, il figlio le diede un bacio, il quale trasformò l'agonia della madre in un'immensa gioia, al punto da restituirle la salute. Ogni bambino ha bisogno di essere baciato e di baciare. Gli studiosi di psicoanalisi hanno constatato che i bambini più irrequieti e delinquenti spesso non hanno avuto attenzioni affettive adeguate. E fra queste il bacio. Eppure costa così poco. Il bacio non richiede grandi spese di energie o di denaro, non ha bisogno di istruzione, non dipende da qualche oggetto e per questo può essere donato in ogni momento. Tutti abbiamo bisogno di questo contatto fisico. Forse possiamo fare a meno del contatto fisico più profondo come quello sessuale, perché esso deve essere espresso nel contesto del matrimonio, ma Dio ci ha creati in modo che possiamo toccarci l'un l'altro, spesso e nel modo giusto con un santo bacio. Inoltre, mentre l'istinto della sessualità è destinato a scomparire, il bacio è una manifestazione di affetto che può essere espressa sempre. Sono poveri quegli sposi che non conoscono il bacio di affetto, di fedeltà, d'amicizia. Il nostro Creatore conosceva questa nostra necessità di contatto fisico, perché per un istante, mediante il bacio, noi percepiamo la presenza dell'altro. Perciò ha relegato il bacio ad un comandamento come quello di amare. Cosa poteva fare di più? Esprimo ora una testimonianza solo per incoraggiare qualche genitore. Sono rimasto orfano di mio padre a 13 mesi, morto di tubercolosi. Per non trasmettermi la malattia contratta subito dopo essersi sposato, secondo la testimonianza di mia madre, mio padre non mi ha mai preso in braccio né baciato. Mia mamma, una donna alla quale non devo solo la vita ma anche tante altre buone cose, è stata assorbita dal carico di allevare due gemelli, e questo in tempo di guerra. Ma di essa non mi ricordo un incoraggiamento, un abbraccio, un bacio. Non significa che non lo abbia fatto, ma evidentemente non è stata così incisiva da imprimere nel mio cuore il suo affetto fisico. Anche perché si può baciare per una propria necessità, anziché per l'amato. Ma pochi hanno compreso questa vitale, determinante differenza. Non sono in grado di comprendere quanto il mio passato influisca nella mia vita. Ma una cosa so, quando ne ho l'opportunità, anche se lascio scompigliato qualcuno, con affetto spontaneo abbraccio, bacio, accarezzo, incoraggio con un tocco i giovani ai quali insegno la parola di Dio, e, nella Chiesa, stringo i miei fratelli, gioioso di sentirli e farmi sentire. Se oggi l'abbraccio affettuoso e il bacio spontaneo disorienta, significa che si è persa un'abitudine atavica che ha accompagnato la razza umana fin dalla notte dei tempi. Mia moglie stessa più volte mi ha testimoniato che per una impensata e smisurata cortesia avrebbe baciato come atto di riconoscenza la persona dalla quale ha ricevuto il beneficio, ma non lo ha fatto per ragioni di cultura. Una cultura che ha ucciso e uccide il gesto più naturale, più santo, più bello, più umano che possa esistere nella razza umana. Ricordo ancora oggi vivamente una sorella in fede anziana con la quale c'era un bellissimo rapporto. Quando per motivi senili non era più presente con la mente, andai a trovarla e come mi vide mi corse incontro con un largo sorriso e senza dire una parola, perché non era in grado di parlare, mi prese il viso e mi baciò da coprire ogni parte del mio volto. Il nostro corpo deperisce e non potremo più servire il nostro prossimo come prima. La nostra mente non è sempre vivace e potremo dimenticare di essere riconoscenti. Ma rimane sempre la possibilità di compiere uno dei gesti più belli e duraturi che ognuno di noi può dare e ricevere, anche sul letto di morte, il bacio. Baci. Venerdì 19 dicembre 2008. Nicole, la mia nipotina di 6 anni, è a casa nostra perché ha un poco di febbre. Desidera giocare a carte e mette la regola che chi perde deve fare penitenza. Ad un gioco perde e io come penitenza le... La nonna, sorpresa per il bacio, chiede il motivo e, venuto a saperlo, viene immediatamente da me per dirmi che ricevere un bacio non è un penitenza. Poi, come riprendendosi da quello che aveva detto, aggiunse: «I baci dei bambini non sono una penitenza. Che sia chiaro. Quello dei bambini». Nicole, colta la precisazione, ribatte: «Ma la mia mamma e il mio papà si danno dei bacini anche durante la giornata». «Il tuo papà e la tua mamma fanno venire il latte alle ginocchia», risponde Lidia, «perché i baci», e a questo punto alza la voce per rimarcare ciò che stava dicendo, «si danno solo quando si parte e si arriva dal treno. Basta». Punto interrogativo. Marzo 2004. Contributo. Desiderio e tenerezza. Claudiana Eric Fuchs.